pixel, i testi cuoci, resti, scrivo rime su rime, sopra fine, scrivo rime nella mia stanza, freddo, lacrime sovolte, battiti del cuore sospetto, soffri continuazione per la morte dei miei cari, mi chiedo perché ti prendi sempre i più bravi, mi lasciati distrutto, portandomi via tutto, non distingo più il bello dal brutto, per rubare la felicità ed ora ci sto male, nei comandamenti dici di non rubare, Gesù io non ti parlo più, tu mi hai buttato giù, guardando vicino a Michele Zolupo, su, ora mi chiedo la felicità, quanto costa, io prego, prego, ma in assenza di risposta, Gesù ma perché mi hai abbandonato, mi hai dichiarato guerra ma mi hai lasciato disarmato. I miei cari e mi rattristo, visto il piangere gente che non ho mai visto, pugni contro il muro, cosa devo fare? Pugni contro il muro, ma in ginocchio sull'altare, dici che sono depressivo, ma sbagli fra, dico soltanto la verità, non dico di passare le mie pene ad un altro, penso di avere un giorno peggiore dall'altro, ha chiamato a te i miei parenti, lasciando noi con rabbia e tristezza, fra i denti, ramo tutti senza nessun problema, esiste problemi invece ora è fatta piena, noi stiamo giù e tu sei l'uno altruno, basta guardare i miei occhi e vedrai cosa provo, gli occhi che fissano un punto fisso, ti dovrei prestare così vedrai cosa ho visto, dico che ci sei vicino ogni volta, ma per me si vicino come una calamita opposta, momenti bui neri come l'asfalto, ti fermo la vita come se fosse un lampo, il mio cielo era azzurro caldo e sereno, ma adesso il mio cielo è diventato tutto nero, sembra che stiamo al comando di uno squalido duce, e tra queste nubi nere cerchiamo uno spiraglio di luce. Strappare i capelli, momenti brutti ma in futuro quelli belli, lo spero per prima e sono positivo, vedete i miei parenti se volete io vi sono vicino, ci troviamo da una stella ad una stalla, se volete piangere io vi concedo la mia spalla, non chiedermi motivo, non chiedermi perché, però c'è gente che dice living to forget. Badio, per i miei parenti, Raptor Studio.